Le prospettive di un lockdown per limitare uscite e spostamenti durante le feste di Natale e di Capodanno ci sembra una punizione durissima. Infatti, per la prima volta nella vita di molti, ci si dovrà organizzare per restare in contatto, ma a distanza, con amici e familiari. Per la prima volta ci saranno famiglie che a Natale non riusciranno a vedersi con i parenti che vivono all'estero o che lavorano e studiano in altre regioni, nel nord Italia. E allo stesso modo, specularmente, ci sarà chi non potrà tornare nella propria città, dai propri affetti, da luoghi in cui ha lasciato pezzi del proprio cuore, tanti ricordi. È uno scenario difficile da sopportare, ma questa condizione così dura è quella che da sempre vive chi ha scelto o chi ha dovuto migrare. È quello che succede a chi cambia paese, a chi deve lottare per avere un documento, un passaporto, un po' di pace in un paese straniero. Passano tantissimi anni senza poter abbracciare un genitore o un figlio. Di questo ne trovate testimonianza diretta nella serie che Radio Antenna Migrante ha realizzato ed è la serie di Orizzonti. In psicologia questa particolare condizione ha un nome diverso, si chiama sindrome di Ulisse. È una combinazione di sintomi sia fisici che psicologici percepiti dai migranti che affrontano più fattori di stress tutti assieme. Non è un disturbo vero e proprio, ma un insieme di fattori che rendono difficile il pieno raggiungimento del benessere di chi lascia la propria patria, come nel poema di Omero. La sindrome di Ulisse prende posto ai livelli estremi dei fattori stressanti. Il compresso contesto migratorio può includere fattori che causano un alto livello di stress, come per esempio separazioni forzate, pericoli del viaggio, isolamento sociale, assenza di opportunità, il senso di un fallimento degli obiettivi di vita, del proprio progetto migratorio, la caduta di uno status sociale e l'estremo sforzo per chi sopravvive, per chi si può raccontare come sopravvissuto, atteggiamenti discriminatori nelle nazioni di accoglienza o nei percorsi di accoglienza. Ed è proprio Ulisse, nel poema epico, a descrivere in un'unica parola qual è la condizione che vive il migrante. Mi domandi quale sia il mio nome? Te lo dirò. Il mio nome è Nessuno. E Nessuno, come tutti mi chiamano. C'è da sperare che tra gli effetti del coronavirus ci sia un potenziamento dell'empatia che farebbe bene a tutti e che potrebbe portare un po' di consolazione nel disastro che il virus ci sta lasciando. Oggi è il 18 dicembre e si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dei Migranti. Persone prima di tutto, con nomi, cognomi e storie. Facciamo sì che nessuno possa chiamarsi ancora nessuno. In questo istante un miliardo di abitanti del pianeta vive l'esperienza dell'emigrazione. Un terzo dell'umanità si sente psicologicamente sul piede di partenza, disponibile o costretto, attirato, rassegnato a doversi rifare una vita altrove. I diritti dei migranti sono per questo diritti di tutti. Un caro saluto da Giulia Scalona al microfono e da Tony Cortazzo alla parte tecnica.